Il progetto persegue essenzialmente tre obiettivi. Il primo obiettivo, che può essere inquadrato in un contesto di analisi e repressione mirata, il primo obiettivo è quello di smascherare i proprietari di casa che da un lato sfruttano gli studenti, dall'altro non pagano le imposte. Non solo, ma anche gli studenti che possiamo definire furbetti, che tramite artifici e raggiri pongono in essere degli illeciti per acquisire appunto illecitamente le borse di studio a scapito degli studenti che realmente ne hanno bisogno. Secondo obiettivo va inquadrato in un ambito di prevenzione. Dialoghiamo direttamente con gli studenti tramite delle clip, delle Instagram stories che posizioneremo sui loro social network per divulgare la cultura della legalità, per fare in modo che gli studenti possano cogliere immediatamente tutta una serie di opportunità, sovvenzioni che spesso non sono conosciute. Terzo obiettivo è quello di tutelare le città universitarie, perché se si diffonde il fenomeno degli affitti in nero possono subentrare delle situazioni come ad esempio delle sacche di illegalità, delle sacche di degrado. In questo momento la situazione è come, perché immaginiamo che questo protocollo venga firmato, però i controlli siano stati fatti anche in precedenza. Sì, noi in realtà abbiamo già iniziato a lavorare assieme all'Agenzia delle Entrate, alla Regione, all'Università. Da questo lavoro comune, da queste sinergie, abbiamo individuato ben oltre 1900 soggetti sui quali abbiamo già iniziato le nostre attività investigative, soggetti che presentano degli indici di rischio notevoli, nel senso che sono quasi sicuramente dei soggetti che hanno affittato le case in nero. Non solo, abbiamo anche lavorato sul contesto extra alberghiero, intendo bed and breakfast, intendo locazioni online, e in questo contesto abbiamo individuato oltre 300 soggetti che presentano degli alti indici di rischio sui quali inizieremo a breve a lavorare in termini di recupero degli importi sottratti alle imposte. Per quanto riguarda la comunicazione su Instagram, come funzionerà di preciso? Nel senso, si farà attraverso gli account dell'Unibo e della Guardia di Finanza? Avete coinvolto, non so, penso a degli influencer? Sì, noi abbiamo innanzitutto colloquiato con gli studenti, con i loro rappresentanti, per capire quali sono i canali più efficaci sui quali sintonizzarci. Una volta dialogato con gli studenti, abbiamo con gli esperti di comunicazione, i docenti universitari, esperti di comunicazione, creato delle clip, delle Instagram stories che contengono tanti utili consigli per gli studenti per non cadere negli inganni degli affitti in nero e soprattutto per poter cogliere al volo quelle opportunità, quelle agevolazioni, quelle sovvenzioni che spesso non sono conosciute. Abbiamo anche individuato con un'attività investigativa importante una, diciamo, associazione che poneva in essere delle frodi, nel senso che utilizzando dei contratti inesistenti, dei contratti fittizi, consentiva degli studenti compiacenti di prendere delle borse di studio che in realtà non spettavano, sottraendole agli studenti che invece ne hanno realmente bisogno. Abbiamo fatto in modo di bloccare 350.000 euro che stavano per essere erogati a queste, chiamiamola associazione illecita, e l'importo totale della frode ammonta oltre 1 milione di euro. Cosa rischiano questi soggetti oltre la restituzione? Beh, chiaramente c'è un profilo di carattere penale, per cui delle condanne di carattere penale. Dopo questa inchiesta quanti denunciati ci sono? Beh, sono gli studenti, sono alcune centinaia, soprattutto nel bolognese.